Sono le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Dal G8 al G14 il vertice dell'Aquila si allarga, in campo anche Cina e India alla ricerca di un accordo ampio su clima, finanza e povertà. Obama incontra il presidente brasiliano Lula e tende la mano ai paesi del G5, un accordo è ancora possibile. L'Italia torna ufficialmente al nucleare, sì definitivo del Senato, al DDL sviluppo con i voti favorevoli di PDL, Lega e UDC. Il governo deciderà dove mettere le centrali, arriva anche la class action attenuata. La festa della liberazione può attendere. In Iraq oggi gli attentati più gravi da quando gli Stati Uniti hanno lasciato il paese, 34 morti e 60 feriti. In Iran il governatore di Teheran minaccia: schiacceremo chiunque manifesti per commemorare l'anniversario della rivolta studentesca del 1999. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Oggi dunque seconda giornata di lavori al G8 dell'Aquila. I paesi poveri, il clima, i progressi verso il trattato di Doha sul commercio globale e la finanza internazionale. Questi i temi in agenda. In mattinata anche una riunione allargata, G8 più G5, che comprende Brasile, Cina, India, Messico e Sudafrica, a cui si aggiunge l'Egitto su temi globali, politiche per lo sviluppo dei paesi più poveri. Ma andiamo per ordine, cominciamo con la cronaca della mattinata, l'agenda degli appuntamenti con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Seconda giornata dunque del summit, i lavori sono entrati nel vivo con in primo piano un focus sulle economie dei paesi emergenti. Si sta parlando però anche delle difficoltà dei paesi più poveri e dell'accordo di Doha sul commercio globale. Di prima mattina vi sono stati già degli incontri bilaterali, alle 10 poi il vertice si è di fatto allargato passando dal G8 al G14, si sono aggiunti infatti Brasile, Cina, India, Messico, Sudafrica più l'Egitto. Tematiche apparentemente distanti stanno convergendo oggi nel dibattito più di quanto si possa immaginare. Crisi economica, misure per uscirne ed abbattimento delle emissioni di CO2 sono infatti strettamente correlate. Da una parte c'è l'Occidente che spinge per vedere confermate le intese sul clima, dall'altra vi è l'esigenza dei paesi cosiddetti emergenti che non possono permettersi flessioni nei ritmi di crescita. Fitto anche il programma del pomeriggio, al G14 si aggiungeranno le organizzazioni internazionali, tra gli altri Banca Mondiale e Fondo Monetario. Nel pomeriggio poi sarà la volta dei paesi MEF, ossia Australia, Indonesia, Corea del Sud, Danimarca, giornata che sarà chiusa con la cena offerta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a tutti e 29 i leader che partecipano al vertice. Da ricordare la presenza oggi qui all'Aquila delle First Lady accompagnate dal Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna, hanno visitato il centro storico soffermandosi in particolare sul Duomo. E dall'Aquila è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E come dicevamo ieri, l'accordo sul clima per il dimezzamento delle emissioni inquinanti entro il 2050, oggi anche, come ci raccontava Vincenzo Miglietta, gli aiuti ai paesi più poveri. E allora Sergio Nava, quali sono i dossier principali sul tavolo e le discussioni su cui oggi i grandi parleranno tra di loro? Innanzitutto vi aggiorniamo, c'è un'altra foto di famiglia che viene insomma scattata in questo momento, quindi è finita la prima sessione di lavoro. Possiamo vedere dagli schermi in sala stampa che i leader del G14, ormai possiamo definirli così, oggi è così, si stanno preparando alla abitudinaria foto ufficiale. Questo per dire appunto che si è già chiusa una prima fase dei lavori. Allora, sui dossier, ovviamente oggi si è parlato di Africa nella mattinata, di aiuti ai paesi più poveri, paesi del terzo mondo. Non è ancora uscito molto al riguardo, non ci sono ancora conclusioni. Quello che si può dire è che c'è grande attesa. E perché c'è grande attesa? Perché 4 anni fa Glenn Eagles, gli 8 grandi, hanno preso impegni abbastanza vincolanti di aumentare a 50 miliardi di dollari annui gli aiuti all'Africa, ma poi non hanno fatto molto, soprattutto Italia e Francia hanno fatto ben poco. Non si è capito se la proposta di The Tax del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti passerà o meno, cioè l'idea è quella di prelevare dall'IVA o comunque dalla tassa nazionale sui consumi una parte da destinare agli aiuti e ai progetti per questi paesi in via di sviluppo. Ovviamente cercheremo di capirne di più dopo, ma come diceva anche Vincenzo prima, il vero fronte dove si gioca un po' tutto è quello del clima. Le attese sono abbastanza a ribasso, se dobbiamo essere sinceri, perché è vero che ieri i leader si sono accordati sul contenimento del riscaldamento globale entro i 2 gradi, ricordiamo che sopra i 2 gradi gli scenari sono abbastanza inquietanti per quanto riguarda poi il futuro del pianeta Terra, si sono anche accordati su una riduzione delle emissioni del 50% entro il 2050, ma India e Cina frenano. Va anche aggiunto che parlare di obiettivi al 2050 è oggettivamente un po' giocare a ribasso, perché sarebbe stato forse meglio anche fissare degli obiettivi di mezzo, ad esempio al 2020, per dare anche un po' più di garanzie sul rispetto di questi obiettivi. E poi c'è anche, bisogna dire, il dossier della WTO, dei negoziati di Doha, del commercio. La Commissione Europea oggi su questo si è espressa, ha detto che occorre chiudere il ciclo commerciale di Doha entro il 2010. C'è un tema di credibilità politica, vedremo ovviamente se qualcosa in questo senso verrà fatto. Ieri i leader si sono espressi appunto per un no al protezionismo e chiudere Doha, o comunque lasciare intravedere una conclusione dei negoziati sul commercio internazionale, sarebbe una chiara dimostrazione che qui non si è solo venuti a fare chiacchiere, ma anche a prendere. E questo è l'auspicio di tutti. Grazie Sergio Nava. Proprio di questo vogliamo parlare con Stefano Silvestri. Buongiorno, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Beh, vedremo se tutto sarà rispettato. Normalmente i G8 sono delle grandi macchine a promesse, più che a esecuzione di queste promesse, diciamo. Ecco, come giudicare questi primi passi? Perché insomma, naturalmente non si ricorda probabilmente un vertice del G8 che abbia lasciato davvero il segno, e insomma gli obiettivi sono spesso troppo alti per poi vanificarsi fin troppo facilmente. Come giudicare questi primi passi, Silvestri? Ma diciamo che questi sono passi di progresso diplomatico, li chiamerei, nel senso che sono interessanti perché apparentemente i leader hanno preso tutta una serie di impegni, i quali però dovrebbero essere poi concretizzati in riunioni successive, quelli sulla trasparenza dell'economia, per esempio, sul controllo dell'economia, al G20 di Pittsburgh e successivamente probabilmente anche al Fondo Monetario o con accordi internazionali specifici, quelli sul clima alla conferenza di fine anno a Copenaghen. Quindi diciamo è tutto un po', sono tutti un po' dei passi in cui dicono noi in quella occasione vorremmo arrivare a questo obiettivo. Quello sul clima in particolare è molto teorico, perché in realtà il problema non è soltanto mettersi d'accordo con gli Stati Uniti, che evidentemente con Obama sono più disponibili che in precedenza con Bush, ma soprattutto mettersi d'accordo con la Cina, con l'India. La Cina neanche era presente, non sarà presente neanche oggi, insomma sono i paesi emergenti quelli che hanno più problemi a rispettare simili impegni. Ecco, quanto possono diventare vincolanti questi impegni che vengono presi in un vertice come quello del G8 per i paesi che decideranno di aderire? Tra l'altro lei parlava della posizione degli Stati Uniti, questa sì forse è una novità sul clima, c'è una maggiore disponibilità in attesa, come diceva, di coinvolgere Cina e India. Ma gli impegni del G8 sono impegni politici. C'è un istituto canadese che da 20 anni studia il G8, che si ha fatto una tabella, la tabella della compliance, cioè di come i vari paesi hanno applicato quello che si sono impegnati a fare nei vari G8. E diciamo che quando va proprio bene arriviamo al 50%, ma per esempio l'anno scorso si è arrivati a un 16% medio complessivo. L'Italia è tra i fanalini di coda, naturalmente, perché noi promettiamo molto, poi non abbiamo i mezzi per mantenere, ma direi che anche gli altri non brillano per coerenza. Ecco, allora prendiamo proprio a spunto quello che lei stava dicendo. Stefano Silvestri, la ringraziamo, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, lo ricordo, perché proprio per quanto riguarda gli aiuti ai paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa, l'Italia fino ad ora non ha rispettato gli impegni presi. Allora proprio di questo vogliamo parlare. Abbiamo sentito Simona Beretta, docente di politica economica internazionale all'Università Cattolica di Milano. Sentiamola al microfono di Valentina Furlanetto. Questi tipi di vertici hanno la funzione che hanno e non si può chiedere di più. Da un G8 ci si può aspettare che ci sia una presa di posizione pubblica e non molto di più, perché il luogo dell'esercizio della sovranità sono e rimangono gli stati nazionali. Quindi è poi giusto che ogni paese e la società civile di ogni paese chieda conto al suo governo di cosa ha fatto di queste promesse solenni. L'ultima promessa nel 2005 da parte dei paesi occidentali era di aumentare gli aiuti all'Africa fino a 21 miliardi di dollari entro il 2010. Ad oggi invece hanno dato solo 7 miliardi, quasi tutti dagli Stati Uniti. Germania e Inghilterra qualcosa hanno fatto, la Francia poco, l'Italia nulla. È una perdita di credibilità per il nostro paese a livello internazionale? Una perdita di credibilità per il nostro paese e poi bisogna anche entrare nei dettagli di quello che questo implica. Senza dare un alibi ai paesi come il nostro che non fanno abbastanza in termini di aiuti, in Africa però dal punto di vista degli economisti africani c'è un forte dibattito su quanto gli aiuti servono e come devono essere stanziati, è così? È un dibattito serissimo, guardi, alcuni dei miei studenti vengono da paesi a basso livello di reddito, alcuni di loro sono africani e devo dire la loro percezione di cosa sia cooperazione allo sviluppo è molto vitalmente legata all'idea che cooperazione è un lavoro fra pari e rivendicano questa assoluta necessità di non essere assistiti, di essere protagonisti del loro sviluppo, di essere sostenuti cooperando davvero. E adesso cambiamo pagina per un momento, ci occuperemo ancora di G8 più avanti nel corso di Extra Large. Parliamo delle scelte degli arbitri di calcio italiani perché si parla dei nuovi designatori che sono stati scelti per la prossima stagione. Sentiamo. Conferma con staffetta in vista. Gli arbitri italiani pensano al presente guardando al futuro della categoria. E allora Pierluigi Collina viene confermato designatore per la Serie A e B, ma fra un paio di stagioni al suo posto è pronto a sedersi Stefano Braschi, che ha già ben fatto a livello regionale e che ora il presidente della sua arbitri Nicchi ha promosso alla guida della Commissione Nazionale dei Fischietti della Lega Pro. Soluzione ponte quindi nel segno della continuità e per far acquisire al futuro erede di Collina la necessaria esperienza. E che siano l'esperienza e la trasparenza le armi migliori per tener testa a sospetti e moviole, lo conferma anche la nomina di Stefano Farina, fresco di ritiro dopo l'annata appena conclusa, a responsabile degli arbitri di Serie D. A lui di fatto il compito di pescare e formare i fischietti d'oro di domani. Dario Ricci, GR 24, Il Sole 24 Ore. 13:17 minuti, seconda parte di Extra Large, ci siamo occupati soprattutto del vertice G8 all'Aquila e come ricordava il professor Stefano Silvestri pesa l'assenza del presidente cinese Hu Jintao che è dovuto tornare in Cina, come sapete la notte scorsa ha presieduto una riunione del comitato permanente dell'ufficio politico del Partito Comunista per la crisi nello Xinjiang dove almeno 156 sono le persone che sono rimaste uccise negli scontri e nelle violenze a sfondo etnico nella capitale Urumqi. Sentiamo. Sembra essere tornata la calma, una calma fragile per le strade di Urumqi, la capitale dello Xinjiang, nella Cina occidentale, dopo violenti scontri etnici scoppiati domenica scorsa che secondo le fonti ufficiali cinesi sarebbero costati la vita a 156 persone e secondo i dissidenti uiguri avrebbero causato addirittura 400 vittime. Ieri, mentre il presidente Hu Jintao rientrava dall'Italia abbandonando il G8 dell'Aquila, Pechino ha fatto convergere sulla città altri plotoni dell'esercito e della Wujing che hanno in pratica tagliato la città in due all'altezza di Via del Popolo, l'arteria principale. Circa 2.000 uomini della polizia militare si sono frapposti fra le zone abitate dai cinesi Han e quelle della minoranza uigura di etnia turca e fede islamica, i due gruppi etnici che si erano violentemente scontrati nei giorni scorsi. Le autorità di Pechino continuano ad addossare la responsabilità delle violenze ai separatisti all'interno del paese, ispirati da forze ostili all'estero, e il segretario locale del partito ha dichiarato che i colpevoli di omicidio saranno condannati a morte, indipendentemente dall'etnia alla quale appartengono. Antonio Talia, GR 24, Il Sole 24 Ore, Pechino. E torniamo invece in Italia perché oggi l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sviluppo. Hanno votato a favore il Popolo della Libertà, la Lega ma anche l'UDC. Al momento del voto i senatori del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori non hanno partecipato per far mancare il numero legale, operazione che naturalmente non è andata in porto. La legge collegata alla manovra d'estate dell'anno scorso contiene varie misure, dalla delega al governo per gestire il ritorno al nucleare, e poi ci sono anche le sanzioni per la contraffazione e la class action che rientra nell'ordinamento italiano ma in forma attenuata. E ora parliamo di Fiat, perché è ferma la produzione allo stabilimento di Termini Imerese nelle aziende dell'indotto per il secondo giorno consecutivo. Gli operai scioperano contro la decisione di Fiat di riconvertire la fabbrica, sospendendo la produzione di auto a partire dal 2012. Disappunto, rabbia, delusione, ma anche voglia di combattere e non perdere la speranza. Sono questi gli stati d'animo dei lavoratori della Fiat di Termini Imerese dopo che ieri il Ministero dello Sviluppo e i rappresentanti dell'indotto hanno confermato l'intenzione di interrompere dal 2012 la produzione di auto in Sicilia e riconvertire lo stabilimento. Nessuno ieri si aspettava l'intransigenza della Fiat sulla sorte di Termini Imerese e la speranza dei lavoratori adesso sembra appesa ad un filo che è rappresentato dal tavolo che a settembre è stato convocato per discutere del sistema automobilistico italiano. Sindacati e lavoratori comunque guardano anche con interesse e speranza alle azioni che il governo regionale siciliano potrebbe mettere in campo. Oggi, per il secondo giorno consecutivo, la produzione nello stabilimento Fiat di Termini Imerese e in quelli dell'indotto è rimasta ferma per sciopero e i lavoratori hanno organizzato un sit-in davanti alla fabbrica. Poco dopo mezzogiorno, a Termini sono tornati i tre pullman che avevano portato a Roma una delegazione di 150 lavoratori che avevano manifestato contro il piano Fiat mentre era in corso la riunione romana. Adesso le eventuali ulteriori azioni di lotta saranno decise nel corso di un'assemblea dei lavoratori. Piero Casagni, GR24, Sole 24 Ore, Palermo. Fin qua la situazione alla Fiat. Oggi intanto giornata di audizione alla Camera al decreto legge anticrisi varato recentemente dal governo, che contiene varie misure proprio per cercare di dare una risposta economica alla crisi. Hanno sfilato Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, anche i sindacati. C'era Chiara Di Michele, buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Alessio. Ha preso il via, appunto, come dicevi da studio, questa mattina il round di audizioni sul DL anticrisi. Si parte con la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, promuove nel complesso il decreto varato di recente dal governo, ma chiede alcune modifiche sulla Tremonti Ter. Innanzitutto la possibilità di anticiparne gli effetti dal 2010 al 2009. In secondo luogo l'ampliamento ad alcuni settori come gli autoveicoli pesanti, l'elettronica per gli impianti e i computer. Altre modifiche che per Confindustria dovrebbero riguardare la compensazione crediti debiti d'imposta. Gli industriali chiedono che non ci siano limitazioni e ci sia l'innalzamento ad 1 milione di euro. Emma Marcegaglia ha anche chiesto che il pagamento degli arretrati da parte delle pubbliche amministrazioni riguardi anche gli enti locali, in particolare la sanità. Sulla stessa linea Confcommercio, Confartigianato e CNA, infine l'audizione del segretario generale dell'UGL, Renata Polverini, che considera il decreto carente per quanto riguarda il recupero del potere d'acquisto e insiste sulla necessità di un sostegno ai redditi da lavoro dipendente e da pensione. Poi chiede un emendamento che risolva il tema della regolarizzazione di colf e badanti, il cui lavoro, sottolinea la Polverini, è fondamentale per assicurare la tenuta del nostro sistema di welfare. Da Montecitorio tutto, a voi la linea. Grazie Chiara. Abbiamo parlato poco fa della situazione a Termini Imerese con lo sciopero dei lavoratori Fiat e dell'indotto. Adesso invece andiamo a Pomigliano d'Arco. La musica può essere anche uno strumento utile per tenere viva l'attenzione sulla crisi del mercato auto, in particolare di una fabbrica storica come quella napoletana della Fiat di Pomigliano d'Arco. Ne sono convinti gli organizzatori della Pomigliano Jazz Festival, manifestazione prestigiosa che avrà inizio questa sera nel parco pubblico della cittadina vesuviana, che a cornice dei tanti concerti in programma fino al 12 luglio hanno organizzato anche la mostra fotografica dal tema Pomigliano d'Arco, la fabbrica, la musica popolare. Il jazz, allestita presso il Museo della Memoria di Pomigliano d'Arco, include gli scatti realizzati da Roberto Masotti, Luciano Ferrara, Pino Miraglia e Silvano Caiazzo. Oltre alla mostra saranno proiettate, tra un concerto e l'altro, immagini dello stabilimento pomiglianese con improvvisazioni live di giovani pianisti napoletani. Il festival, diretto da Onofrio Piccolo, giunto alla 14ª edizione, offre quest'anno due esclusive nazionali, due produzioni inedite, tre orchestre, omaggi a Miles Davis, Pierpaolo Pasolini, Miriam Makeba e Igor Stravinsky. Anche in incontri, performance artistiche, laboratori creativi per bambini, guidi all'ascolto e prove aperte. Tutto a ingresso gratuito. Apre alle 21 il concerto I Migranti del Sestetto di Marco Zurzolo. Da segnalare anche il concerto del 10 luglio, un omaggio a Miles Davis, prodotto da Itinera, all'etichetta del festival, con Fabrizio Bosso, Francesco Berzatti, Eivind Arset e Aldo Vigorito. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E ora parliamo di sport nuoto, perché a pochi giorni dai mondiali di Roma arrivano due nuovi primati mondiali. L'americano Persol ha ritoccato quello dei 100 dorso e, pensate, una quindicenne canadese ha stabilito a Montreal il record dei 50 rana con 30 secondi e 23 centesimi. Ora la nostra tappa di avvicinamento ai mondiali del 17 luglio. Roma 2009, mondiali di nuoto. Lei è stata la regina dei mondiali di Melbourne 2007. Nella piscina di casa Lisbeth Lenton-Trickett conquistò 5 ori, dominando i 50 e i 100 metri stile libero, i 50 farfalla e le staffette. Lui, Heamon Sullivan, primatista mondiale sui 100 stile libero, vuole vendicare la beffa di Pechino 2008. Insieme arrivano dall'Australia per conquistare Roma. Sullivan still got it. A Melbourne e dintorni il nuoto è religione, cultura, passione popolare e il palmarès già colloca Lisbeth Trickett tra le più grandi nuotatrici australiane di tutti i tempi. Tra Atene e Pechino ha conquistato 2 ori, un argento e 2 bronzi olimpici, mentre in 3 edizioni dei mondiali gli ori sono già 8. Ma Roma sarà l'occasione di una grande rivincita per Lisbeth, che a Pechino ha dovuto lasciare alla tedesca Britta Steffen il gradino più alto del podio sui 50 e 100 stile libero. E la Steffen le ha recentemente strappato anche il record mondiale sui 100 stile libero. It is a challenge, but that's why I swim. I love challenges. Quella con Britta a Roma sarà una sfida incredibile, ma è proprio per vivere queste sfide che ho scelto di nuotare, confessa la sorridente Lisbeth a Radio 24. Sfidarla è eccitante, a me le sfide piacciono, come mi piace nuotare veloce. Sono fiduciosa di poterlo fare anche a Roma. Viviamo una rivalità forte ma leale e siamo entrambe molto competitive, ma a Roma spero proprio di starle davanti. Anche Heamon Sullivan viene a Roma assetato di rivincite. Le incertezze regolamentari sui nuovi superbody, che hanno portato alla cancellazione del 46,94 di Alain Bernard, gli hanno restituito il record mondiale sui 100 stile libero, stabilito dall'australiano nella semifinale olimpica di Pechino con 47,05. Ma in finale proprio Bernard gli strappò l'oro, mentre sui 50 metri Heamon, grande favorito, finì appena sesto. Il passato è passato, ora preferisco guardare al futuro, ci spiega. Difficile dire cosa accadrà a Roma, ci sono tanti rivali, da Bernard a Magnini, e tanti piccoli particolari che possono condizionare la gara. La velocità della prima vasca, il modo di toccare il cronometro all'arrivo. Il mio record, i primati passano, le medaglie d'oro restano. Perciò a Roma voglio il gradino più alto del podio. Insomma, parte dall'Australia, l'assalto all'oro di Roma. 13:33 minuti, GR Extra Large, le notizie di oggi. Dal G8 al G14 il vertice dell'Aquila si allarga, in campo anche l'India alla ricerca di un accordo ampio su clima, finanza e povertà. L'ONU lamenta progressi insufficienti, Obama incontra il presidente brasiliano Lula, tende la mano ai paesi del G5, un'intesa è ancora possibile. L'Italia torna ufficialmente al nucleare, sì definitivo al Senato, al DDL sviluppo, con i voti favorevoli di PDL, Lega e UDC. Il governo deciderà dove mettere le centrali, arriva anche la class action attenuata. La festa per la liberazione può attendere, in Iraq oggi gli attentati più gravi da quando gli Stati Uniti hanno lasciato il paese, 34 morti e 60 feriti. In Iran il governatore di Teheran minaccia: schiacceremo chiunque manifesti per commemorare il 10° anniversario della rivolta studentesca del 99. E allora torniamo all'Aquila, al vertice del G8. Abbiamo parlato nella prima parte di Extra Large dei dossier che sono sul tavolo: il clima, le regole della finanza mondiale, il commercio internazionale, gli incontri che sono previsti per oggi. Salutiamo Vincenzo Miglietta di nuovo. Buongiorno Vincenzo. Sì, di nuovo buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. E allora cerchiamo un po' di vedere in questa grande kermesse, in questa grande manifestazione, anche se ci sono degli altri scampoli di cose da raccontare, degli altri aspetti in questa giornata. Ieri c'è stata la visita dei grandi nelle zone distrutte dal terremoto, l'impegno per ricostruire e la cornice naturalmente è importante, c'era molta attesa anche da questo punto di vista. Oggi Vincenzo, da cosa è caratterizzata la giornata, diciamo, extra vertice istituzionale? Sì, interessante ricordare proprio quello che stavi dicendo da studio, ovvero che vi è sempre un doppio livello del susseguirsi degli avvenimenti nell'ambito del G8, la parte istituzionale e poi la parte più rivolta alla ricostruzione dell'Aquila. Ieri i grandi leader, tra cui il presidente Barack Obama, hanno visitato il centro storico dell'Aquila. Oggi è stata la volta delle cosiddette First Lady, presenti ieri a Roma, oggi qui nel capoluogo abruzzese, accompagnate dal ministro per le pari opportunità Mara Carfagna, hanno visitato alcuni dei luoghi simbolo del terribile sisma del 6 aprile, a partire dalla piazza del Duomo dell'Aquila, con le importanti chiese che vi si affacciano e così tanto colpite dal terremoto. E quindi oggi spazio alle First Lady, che nel pomeriggio saranno presenti qui nella cittadella della Guardia di Finanza, dovrebbero addirittura incontrare la stampa. Nel frattempo sono in visita ad altri luoghi culturali del capoluogo abruzzese, tra cui delle mostre sui reperti archeologici che sono stati salvati proprio a seguito del sisma. Sono state allestite in particolare due mostre. Un altro appuntamento molto simpatico è stato poco fa la foto ufficiale al termine del G14, strette di mano e cordialità che fanno ben sperare sul proseguo della giornata. Vincenzo, hai per caso notizie della tenda di Gheddafi? No, perché abbiamo letto poco fa che... Vincenzo, ci senti ancora? Sì, sono qui. Sì, no, ti chiedevamo notizie a proposito della tenda di Gheddafi, ma non so se allora, se è visibile. Risulta, sì, a noi risulta che stiano allestendo ancora la struttura, e probabilmente quella zona della cittadella della Guardia di Finanza ha maggiore controllo proprio da parte delle forze dell'ordine, per cui avere delle notizie certe è abbastanza difficile, ma almeno a quello che risulta a noi la presenza del leader libico è confermata e di conseguenza anche tutta l'attrezzatura che lo accompagna normalmente. Benissimo, grazie Vincenzo. Torneremo più avanti anche con Sergio Nava per altri dettagli che riguardano l'organizzazione del G8. Adesso invece un'altra finestra sul perché il G8 è anche una vetrina per i comitati di cittadini che da settimane chiedono impegni insomma da parte del governo, delle istituzioni per la ricostruzione delle loro case. Daniele Morini, oggi c'è stata anche un'azione simbolica da parte di uno di questi comitati. Sì, esatto, si tratta dello stesso gruppo di giovani che ieri mattina hanno installato la grande scritta Yes We Camp, parafrasando quello che era lo slogan elettorale di Obama per le presidenziali USA. Questa scritta, appunto, Yes We Camp, sì, noi, come dire, siamo tendopoli, siamo accampamento qui sulla collina di Roio, che è una collina che sovrasta l'Aquila proprio di fronte alla città e che è visibile anche dalla Guardia di Finanza, dalla sede lì a Coppito del G8. Stamattina si sono riuniti brevemente nel loro campo di via Strinella per decidere e poi hanno messo in scena questa azione a scopo solo dimostrativo, l'hanno precisato bene di fronte ai giornalisti che lì in qualche modo li stavano osservando. Ecco, si sono appunto saliti su un palazzo, sui terrazzamenti di un grande palazzo, di una serie di palazzi in costruzione, ormai terminati, però rimasti sfitti al 90% praticamente. Hanno voluto sollevare il problema delle 3.000 case sfitte, queste sono le fonti ufficiali che hanno citato fonti di prima del sisma, case sfitte da utilizzare, dicono loro, per i senza tetto del terremoto e per le attività produttive e sociali. Ma le motivazioni di questo gesto ce le facciamo spiegare da Sara Vegni, che fa parte di questo gruppo 3 e 32, il gruppo della ripartenza. Noi siamo qui in un palazzo che è vuoto, è agibile e che forse le persone potrebbero abitarci invece di vivere a poche centinaia di metri dove c'è la Tendopoli Piazza d'Armi, come ben sapete la più grande Tendopoli aquilana, nelle tende, in condizioni atroci, in condizioni disumane, quando qui appunto ci sono appartamenti sfitti, agibili, in cui potrebbero essere abitati da aquilani. E allora grazie anche a Daniele Morini per questo racconto dall'Aquila, le proteste, le iniziative dei comitati di cittadini. Ma le proteste riguardano anche le associazioni ambientaliste che continuano a darsi da fare. È stata occupata oggi da parte di Greenpeace un'altra centrale elettrica a carbone, però la notizia è che l'Enel e gli operai soprattutto non approvano queste iniziative. Sentiamo. Proseguono le azioni di protesta di Greenpeace in occasione del G8. Da questa mattina le centrali occupate salgono a 5. Oltre a quelle di Brindisi, Marghera, Vado Ligure e Porto Tolle occupate ieri, è stato preso di mira anche l'impianto di Torre Valdaliga Nord nei pressi di Civitavecchia. Stamattina all'alba gli attivisti sono saliti su uno dei carbonili della centrale per scriverci sopra un messaggio diretto ai grandi della terra riuniti. G8 stop this. G8 ferma questo, cioè il carbone. Ma i lavoratori della centrale non approvano l'azione degli ambientalisti. Stefano Ligorio, un operaio. Io sono un operaio manutentore del nostro trasporto di carbone, della centrale di Torre Nord, la più avanzata al mondo. Io non esiste che quando lavoro in casa mia vengono persone a disturbarmi e a interrompere il lavoro che dà pane alla mia famiglia, soprattutto per delle cose ingiuste, false e bugiarde. Perché noi qui siamo nella centrale più avanzata al mondo. E per una volta aziende e lavoratori sono d'accordo, come conferma Ennio Fano, responsabile grandi progetti infrastrutturali dell'Enel. È quello che noi vorremmo ribadire, ma che diciamo anche agli amici di Greenpeace. Noi stiamo trasformando delle vecchie centrali ad olio. Noi andiamo a ridurre per ogni centrale che trasformiamo di 2 milioni e mezzo di tonnellate la CO2. Quindi siamo sereni e capiamo la posizione di Greenpeace, che vuole mettere in evidenza il tema della CO2, ma forse hanno sbagliato obiettivo. Zelia Pastore, GR24, Il Sole 24 Ore. E oggi al G8 è anche il momento del mondo arabo, come ci racconta il nostro Adiba Fateh Ali. Ascoltare la voce dei paesi emergenti, aiuti e investimenti ai paesi poveri e l'allargamento a 14 il gruppo degli 8. Sono queste le richieste il presidente egiziano Hosni Mubarak farà oggi ai grandi della terra, come riporta Mane, il quotidiano egiziano Al-Ahram. Il giornale del Cairo anticipa che il Reis, giunto ieri a Roma, porterà al vertice la visione del mondo arabo-islamico sulla crisi economica mondiale. Crisi che è al centro dell'attenzione della grande stampa araba. Oltre a mettere in rilievo la condanna al negazionismo di Teheran, dall'Aquila si aspettano novità per i paesi poveri del mondo, su tutti i due editoriali. Ma quando cancellerete gli ingiusti debiti? Recita il titolo di Al-Ahram. I grandi dell'Occidente la smetteranno con questo nuovo colonialismo e invece quello di Al-Quds Arabi. Radif Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo a Venezia, dove il TAR ha dato ragione agli organizzatori, bypassando il divieto del sindaco Cacciari, prende il via dunque Erotica. Stelle del porno contro Massimo Cacciari 1-0. Le attrici di Erotica Tour Millennium saranno questa sera regolarmente sotto le luci del mega tendone approntato a Marghera per il loro show, nonostante l'ordinanza contraria emessa dal sindaco di Venezia nei giorni scorsi. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso d'urgenza presentato dagli organizzatori della kermesse dopo che il comune aveva vietato lo svolgimento di Erotica Tour per ragioni di ordine pubblico. La fiera del sesso dunque si svolgerà regolarmente a Marghera larga era salvo qualche sorpresa dell'ultimissimo minuto per il collaudo del tendone. Gli organizzatori sono però più che tranquilli in merito e hanno già brindato alla vittoria contro Massimo Cacciari. Il primo cittadino non ha voluto commentare in alcun modo una sentenza del TAR. Al comune gli organizzatori di Erotica Tour dovranno comunque un contributo di 10.000 euro per pagare gli straordinari che i vigili urbani faranno in queste sere. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Si sta per chiudere la prima settimana di Tour de France, allora ne parliamo con Pier Augusto Stagi, inviato, buongiorno. Buongiorno a voi, esattamente oggi una tappa tutta spagnola per il Tour de France, sesta tappa, partenza, sono partiti all'1 alle 12.55 da Gerona e arriveranno a Barcellona dopo 181 chilometri, si arriverà sulla cotta del Montjuïc, una tappa difficile ma non difficilissima che probabilmente potrebbe essere adatta a corridori veloci ma che devono comunque saper affrontare anche qualche salita. Al momento la corsa ha già affrontato la prima asperità, c'è un gruppetto di 10 corridori in fuga con Fabian Cancellara, la maglia gialla di questo tour. Questa mattina il campione d'Italia Filippo Pozzato è partito con una maglia tradizionale dopo aver ricevuto il richiamo da parte della federazione, aveva infatti indossato una maglia tricolore molto originale, a livello di marketing sicuramente bella ma poco identificabile per il campione d'Italia. Si attendono qua a Barcellona circa 400.000 spettatori che sono già pronti, hanno preparato anche una coreografia che hanno chiamato Ola all'arrivo del tour, infatti probabilmente ci sarà tutta una scenografia per accogliere e festeggiare questa giornata. Gerex Allarge, ben ritrovati. Allora, come detto, ritorniamo all'Aquila per il vertice del G8. Sergio Nava, uno dei nostri due inviati. Sì, Sergio, cosa ci racconti? Volevo parlare un po' dell'organizzazione logistica, tornare ancora sull'organizzazione logistica di questo vertice Giotto, raccontando anche qualche aneddoto. Forse vale la pena anche un po' parlare di quegli aspetti che emergono meno sui media, cioè di come vivono anche i giornalisti. La prima cosa interessante è che praticamente oggi io sono arrivato qui a Copito senza praticamente avere nessun tipo di controllo ai metal detector. Questo è grave davvero. Questo mi ha lasciato abbastanza, devo dire, sconcertato. Perché praticamente. No, aspetta, Sergio, ma tu che tipo di percorso hai fatto? Io faccio un percorso dall'hotel al centro stampa e di Chieti in realtà e dal centro stampa di Chieti qui a Coppito dove siamo entrati senza controlli e metal detector, quindi fai parte dei giornalisti, quindi forse è stato riconosciuto da questo punto di vista. Insomma, tutti i vertici che ho visto ho sempre avuto controlli di ogni tipo, anche abbastanza pesanti. Ieri ci sono stati, oggi incredibilmente no, ma non solo, devo dire che c'è molto malumore tra i giornalisti e anche tra le delegazioni stesse. Cito solo che ieri ho visto all'ufficio, al punto informazioni qui dei Coppito, i giornalisti, dei membri di delegazione, non so di quale nazionalità, parlavano inglese e dicevano: beh, meno male l'anno prossimo siamo in Canada. Ecco, Però un motivo di giubilo c'è stato, i gadgets. Io ho saputo che c'è stata una rincorsa, non so se tu sei sgomitato, ce l'hai fatta oppure no. Sì, c'è stata ieri, devo dire. Penso sia avvenuta per il fatto, un po' per ingordigia giornalistica e un po' anche per il timore che se ne fossero stati troppo pochi fabbricati o prodotti meno di quelli che effettivamente un numero inferiore rispetto al numero effettivo dei giornalisti, siamo oltre 3.500. Ma parlaci un po' di questo gadget, cos'era così interessante? Ma nulla di particolare, uno zainetto, un orologio del G8, una maglietta del G8 e un asciugamano, oltre a una penna, e nulla di particolare, sono quei ricordi e poi uno mette, diciamo, nella sua bacheca e se li rivede una volta arrivato alla pensione, forse. Però diciamo che non era assolutamente nulla di particolare, è stato un omaggio carino, ma non. Però tornando proprio ai malumori, ci sono qua, bisogna dire c'è molta improvvisazione, ecco, questo è una cosa che ho notato abbastanza, i corrispondenti della stampa estera sono abbastanza arrabbiati su questo, perché c'è grossa incertezza sul tipo di conferenza stampa, su come si può arrivare a una conferenza stampa, non ho capito bene se è voluta o meno, ma c'è una forte improvvisazione che ha dato un po' sui nervi a tutti, comprese, devo dire, le delegazioni che non riescono a capire come, chi e come come gestisce il meccanismo organizzativo, diciamo, per giornalisti e delegazioni. Va bene, grazie Sergio, ci fermiamo qua. Tu tra l'altro sei uno che di vertici ne ha seguiti, quindi insomma prendiamo per buono questo tuo racconto, ma c'è tempo anche domani sicuramente per tornare su questo argomento che ha fatto da preludio, tra l'altro l'organizzazione del vertice da parte dell'Italia ha fatto proprio da preludio con varie polemiche all'inizio del G8. Adesso invece andiamo in Iraq, perché è stata una giornata forse la peggiore da quando gli Stati Uniti hanno lasciato il paese. Attentati a ripetizione, 4 in poche ore, almeno 41 vittime, tra cui molte donne e bambini. È l'Iraq di questa mattina. Sono gli attacchi più sanguinosi da quando il 30 giugno le truppe statunitensi hanno iniziato a ritirarsi e l'ordine pubblico è nelle mani della polizia locale. A Tal Afar, una cittadina multietnica nel nord del paese, in cui convivono curdi, turcomanni ed arabi, sono morte 34 persone, 60 rimaste ferite, in un doppio attentato suicida in un quartiere residenziale della città. L'obiettivo fallito dell'attacco era colpire due fratelli poliziotti che lavorano per un'unità antiterrorista. Un primo kamikaze imbottito di tritolo si è fatto esplodere in mezzo alla folla nei pressi della loro casa. Pochissimi minuti, il tempo necessario perché le persone accorressero sul luogo dell'attentato ed è saltata in aria la seconda bomba umana. Poco prima, Sadr City, lo sterminato sobborgo sciita di Baghdad, dove vivono circa 2 milioni di persone, un'altra duplice esplosione ha fatto 7 vittime e 20 feriti. Secondo la polizia, gli ordigni in questo caso erano stati nascosti in mezzo ai rifiuti del mercato. È un'escalation di violenze dal giorno della festa di liberazione. Nelle strade della capitale il 30 giugno scorso si viveva con entusiasmo il ritiro statunitense, anche se alcuni confessavano di temere che il paese non fosse in grado di andare avanti da solo. È ancora presto per dirlo. La cosa certa è che i festeggiamenti per la riconquista della sovranità nazionale devono ancora aspettare. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora in Iran le autorità di sicurezza dicono che schiacceranno chi oggi dovesse dar vita a manifestazioni per commemorare l'anniversario della rivolta studentesca del 99. Parole queste gravi del governatore generale di Teheran. E da circa 10 giorni non si hanno più notizie di manifestazioni in Iran. Allora andiamo con la nostra Giulia Crivelli, che ogni giorno ci fa la rassegna stampa internazionale. Buongiorno Giulia. Buongiorno. A cercare di capire un po' invece sulla stampa, sui siti, anche su internet, se ci sono un po' di notizie sulla dissidenza in Iran. Sì, hai ragione, è sempre più difficile avere informazioni di prima mano, anche perché, come sappiamo, i giornalisti stranieri sono stati tutti espulsi, quindi chi è rimasto a suo rischio e pericolo e a rischio della vita sicuramente. Infatti sono soprattutto i corrispondenti di lingua anglosassone, dai giornali di lingua anglosassone, che stando al confine, nelle nazioni confinanti, per l'International Herald Tribune, quindi New York Times, il corrispondente Sam Dagher è in Iraq, per il Wall Street Journal c'è invece un corrispondente dall'Egitto che cerca di avvicinarsi più possibile all'Iran o di avere notizie da lì, e comunque tutti cercano di tenere viva un po' l'informazione, perché di fatto per noi tutta la situazione resta molto misteriosa, anche perché quello che per esempio spiega l'International Herald Tribune è che è vero, le proteste, grazie ai video messi su internet, ce ne sono anche oggi un po' clandestini, dove è poco distinguibile bene che cosa stia succedendo e dove si sia, però danno l'idea di manifestazioni che forse coinvolgono davvero la maggioranza del paese. Questo succede a Teheran, sottolinea l'International Herald Tribune, però Ahmadinejad, questo leader così considerato parte dell'asse del male dal vecchio Bush, sicuramente considerato pericoloso anche da Obama, gode in realtà di tantissimo supporto popolare, soprattutto fuori da Teheran, spiega l'International Herald Tribune. Il Wall Street Journal è più, diciamo, più appunto sulle posizioni di Obama, cioè più che cercare le ragioni o di cercare di capire che il paese è in realtà spaccato in due, non tutto pro Mousavi, spiega che adesso ci sarà le dimostrazioni continuano e ci sarà addirittura è annunciato uno sciopero di 3 giorni in Iran, e questo naturalmente potrebbe essere un ulteriore segnale al governo, che però per ora, grazie a una potentissima macchina di controllo grazie alla polizia e ai servizi di sicurezza, per ora in questo momento, scrive Wall Street Journal, la situazione è sotto controllo. Poi sui blog certo le persone cercano di soprattutto dimostrare a noi occidentali che la protesta è viva, però in realtà se poi non si può entrare o se comunque Ahmadinejad, un certo almeno metà del paese è con lui, sarà molto difficile che il voto che si vada a nuove elezioni, perché il voto ormai è stato certificato, lo sappiamo. Quindi è un po' tutto, insomma, è una situazione ancora che si sta evolvendo.